CQ canale 10, CQ 10, c'è qualcuno che ascolta? Attento Marco, ci sei d'ascolto? Attento Marco, ci sei d'ascolto Marco? Claudio, attento Claudio, ci sei d'ascolto? Chi c'è su 10? Chi c'è su canale 10, avanti? Beh, Casare, sì, io vado geniale, c'è gente a lui, casa tua c'è 9.30, K ci conferma, ma ho visto, no, questo è 4.40, completamente revisionato, completamente, tutto da capo, adesso è nuovo, praticamente speriamo che duri altri 4-5 anni. KK, questa è una bella bestiolina. Qua c'è qualche spettacolo da qualche parte. No, Ilaria entra a lavorare a mezzanotte oggi, da mezzanotte alle 6, oggi e domani. E quindi a cena, adesso fra un po' preparerà qualcosa. E via. E siamo qua. Dove? Manca Guattrani, dove che donna? A Monserrato al tie break, Altanit e poi il fine settimana fa il notturno al tie break a Monserrato. Guarda, manco un giorno è rimasta senza niente, se n'è andata lei, perché non è un lavoro molto molto delicato quello, capito? Fa panini, cose, già c'è stata quasi 9 anni, quindi il padrone che ha aperto a Monserrato un suo amico, tra l'altro il suo commercialista, e quindi gli ha detto: io dilli arrivederci e vieni con me. E così ha fatto, subito si è fatto 10 giorni di ferie e poi ha preso lavoro lì a Monserrato, e c'è già 3 anni forse, c'è 3 anni pieni da quando hanno aperto, dall'inaugurazione c'è KK. E lì è un'altra guba, sì, lì si è a tempo pieno, capito? Sì, a 6 ore, a volte a 8 ore. Adesso fa il notturno, il sabato e la domenica sta facendo il notturno. Capito, mi hai? Lei ha iniziato a lavorare a 16 anni, come me. Una 30, vabbè, da cantonaggia, mi ha sempre assicurata. Ma anche a combattimento già la conosci. Poi è il suo lavoro, lì c'è l'alberghiero, quindi è il suo lavoro. Spero che per il prossimo anno, ormai quest'anno, sta cercando un'attività sua in coppia, se riesce a prenderla, capito? Vediamo un po'. E lui lì entrano verso le 7, io mi ce l'avevo accesa, ti ho schiacciato a vedere se c'era qualcuno, di solito mi risponde Giulio. E basta. Io ci sono un po' più da presto, ma gli altri anche nell'altro canale entrano verso le 7, capito? Va bene, dai, non ti trattengo. Ciao, saluta via Marina, buona passeggiata e buon fine settimana, ok? Ciao, guerriere.